dimenticare una volta, non ricordare più dove sei, non sai più il tuo nome, seduto alla stazione, dov'è? Anonimo, felice dimenticanza di sé.